There's a song about leaving Naples for America at the beginning of the 20th century. My grandfather came here in 1904. Partir in noi bastimenti per terra sai lontan cantano bordo son napolitan cantano petramente o golfo già scumbare e a luna mezzo mare no poche Naples ce vo morir. Santa Lucia lontana te, quando malingono io, se giro munesan, se var circa fortuna, ma quando sponda luna, lontane Naples non sa posta. Santa Lucia, tu tienes solo un poco mar, ma più lontano stai, più belle par. Cantano le sirene, cadesse ancora arezza, cuore vuoi ricchezza, si è nato Naples, c'è vo morì. Santa Lucia lontana te, quando malingoni, se giro muno san, se far circa fortuna, ma quando sponda luna, lontane Naples non sa posta. Santa Lucia lontana te, quando malingoni. Grazie a tutti. Thank you. Noi che perdimmo a Gesù, no, non ci dicimmo mai perché. Voce che va se non ne vono, non so sti voci o ne. Ore ti chiama e non risponde, per fa dispietto a me. Tenimoci così, anime core, non ce la sammo più, manco per noi. Stu desiderio e te me fa paura, camba con te, sembra con te, per non che c'è di cima fa parole amare, si ho bene può cambiare con un respiro, si smani pure tu per chi sta mo', tenimoci a così anime e cuore. Si smani e pure vedo per chi stiamo. Tenimoci così, anime e thank you. mano sponda la luna marchiare, pur li vesce ne va nell'amore. Se ne vode nell'onde dello mare, della briezza cagne nel colore, quando sponda la luna marchiare. Thank you. bella cosa, una giornata sole, un'aria serena, dopo una tempesta, bell'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, una giornata sole, ma nato sole, più bello è ne, o sole mio, sta in fronte a te. Pare una rosella. topo gorillo a passo gli atella. Sta compagna vostra c'aggio perduto sonno e a fantasia che penso sempre che a tutta vita mia in ge volesse digere ma non lo saccio a voglia bene, a voglia ben assai, di girincelle vuoi, que non mi scorda mai. È una passione più forte na catena che a me turmiente l'anima. Thank you.